impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Cantieri Amico, dove si trasformano i maxi yacht. Di Andrea Ferro. È una storia di mare sbocciata lungo la riviera Ligure e di vocazioni antiche. Costruire barche, grandi e piccole, trasformarle, adattarle. È la storia del cantiere Amico, iniziata in provincia di Savona e proseguita a Genova. A raccontare questa trama di vita e di lavoro è Alberto Amico, presidente dell'azienda. La famiglia Radici torna all'inizio dell'Ottocento, quando un avo sulla spiaggia di Loano iniziò a costruire veliere in legno, dimensione da poche decine di metri fino a 80 passa metri. Questa quindi è una bella tradizione che è proseguita fino a quando sono poi nate le navi a vapore e quindi le navi in acciaio, in ferro chiodato, e quindi questa tradizione della costruzione navale ligure italiana pian piano si è spenta. Poi è proseguita con attività di manutenzioni navali nel porto di Genova, e fino a quando io mi sono laureato nell'88, nel 90, ho messo insieme una laurea in ingegneria, la passione per il mare e la tradizione di famiglia nel campo navale delle manutenzioni navali, per realizzare quello che poi è venuto fuori, cioè un cantiere dedicato totalmente al refitto e alla ristrutturazione di grandi yacht. Beh, non poteva venire fuori nient'altro che questo, visto gli ingredienti. Negli anni 90 l'avventura del cantiere Amico riparte dal cuore di Genova, il porto. È una sfida tipica degli uomini, il mare. Il coraggio imprenditoriale impastato di salmastro e di voglia di guardare oltre l'orizzonte alla ricerca di nuove opportunità da esplorare. Siamo partiti veramente con pochissimi mezzi, da zero direi, perché nel mercato noi non esistevamo, ma dico di più, non esisteva il mercato, perché a fine anni 90 il mercato degli yacht grandi era un mercato fatto di pochissimi numeri a livello mondiale. Una barca grande in Italia era considerata una barca intorno ai 20-25 metri. E infatti lì, è da lì che siamo partiti a operare barche da 15-20 metri fino a 40 metri. Poi via via si è sviluppata l'attività, sempre andando a investire molto in infrastrutture, ma soprattutto poi in professionalità, e lì abbiamo avuto un buon serbatoio di professionalità nell'arco ligure. La nostra attività è un insieme di mestieri, ancora fatti con le mani, che la differenza di livello di incidenza della manodopera nel refitto e nel service rispetto alla nuova costruzione è altissima, è molto più alta nel refitto che la nuova costruzione. Inoltre nel refitto è richiesta un'autonomia e capacità di giudizio critico su quello che si sta facendo, e quindi di conoscenza ancora superiore rispetto alla nuova costruzione. Quindi è un settore dove il fattore umano, la risorsa umana è centralissima, insieme ovviamente alle infrastrutture, senza le quali non si riescono ad accogliere queste navi che nel frattempo da 40 metri sono diventate 140 metri, quindi noi ora operiamo da 40 a 140 metri. Ristrutturare e reinventare yacht, che in realtà ormai sono grandi come navi, richiede quindi competenze elevate, formate a una scuola che tramanda nel tempo saperi, abilità, manualità, professionalità, conoscenza dei materiali. Mestieri tradizionali declinati nel tempo, come ci racconta ancora Alberto Amico, presidente del cantiere Amico. Il nostro è un insieme di mestieri che grazie a Dio esistono ancora in Italia, anche se qua c'è un tema delicato, perché si va via via perdendo la vocazione ai mestieri, però devo dire che finora riusciamo ancora ad avere le risorse, anche questa è una scelta, risorse interne invece che terziarizzare al 99% come fanno tantissimi altri cantieri. Riusciamo a avere le risorse interne e stiamo puntando sulle risorse interne, quindi sui mestieri, sulle professioni, falegnami, meccanici, meccatronici, esperti di lavorazioni in interni, ebanisti, pittori a dei livelli incredibili come standard qualitativo. Quindi sono tutte professioni molto molto interessanti dal punto di vista tecnico, tecnologico e dello standard qualitativo poi che si raggiunge, e tutto l'insieme forma un'alchimia che poi va fatta funzionare in quanto a sistema, con una gestione delle interferenze, con una organizzazione del lavoro che spesso è quello che noi chiamiamo un organized chaos, un caos organizzato, perché ci troviamo a lavorare su anche 15, 20, 25 progetti allo stesso momento, e i progetti continuano a cambiare forma e dimensione durante la lavorazione, perché noi lavoriamo su una yacht, su una barca esistente, quindi c'è complessità che si aggiunge a complessità nel gestire un insieme di 200-300 persone che lavorano e entrano ogni giorno in cantiere, che lavorano su dei progetti molto vivi e quindi pianificabili fino a un certo punto. Quindi c'è un'esigenza di management, di project management, di gestione operativa, che è anche quella un bel tema. Con 130 dipendenti e un fatturato di 45 milioni, il cantiere Amico esegue mediamente 110 progetti all'anno. Il 90% dei clienti arriva dall'estero. Una mole di lavoro che ha proiettato l'azienda ai vertici continentali del settore e tra le prime al mondo. Tra gli armatori che si rivolgono ai cantieri genovesi, big dell'industria e della finanza, campioni dello sport, divide il mondo dello spettacolo, Reali. Tutti i nostri clienti ovviamente sono persone estremamente importanti, perché persone che si possono permettere barche che hanno dei costi operativi di qualche milione e valgono qualche centinaio di milioni, ovviamente sono persone importanti, ma quello che è importante per noi è il tipo di rapporto che si crea, perché la nostra crescita è dovuta al fatto che abbiamo saputo creare negli anni questa confidenza, questa crescita di reputazione, tale che i clienti tornano perché sanno che riescono ad avere un rapporto di fiducia. Sembra una parola un po' usurpata, però è fondamentale nel nostro settore l'aspetto della reputazione, l'aspetto dell'affidabilità che si riesce a dare, quindi non solo gli standard qualitativi, ma proprio l'affidabilità nel rapporto contrattuale, che poi diventa un rapporto di partnership, perché noi diventiamo un partner per l'operatività, per mantenere efficiente l'operatività di questi yacht, che ormai sono yacht che una volta si usavano d'estate, oggi si usano tutto l'anno e hanno delle soste tecniche programmate anche a 2 anni, a 3 anni, in modo da ottimizzare l'operatività per l'armatore. Quindi è importante per questi armatori avere dei punti di riferimento, e noi siamo riusciti a diventare un punto di riferimento per ciò che riguarda i servizi tecnici e logistici. Gli yacht si allungano e si trasformano. Diventano residenze extra lusso, quartieri generali, sedi di rappresentanza in giro per gli oceani tutto l'anno. Le esigenze e le preferenze cambiano e si affinano, come ci racconta Alberto Amico, presidente del cantiere Amico. Tra le tendenze di fondo che si impongono c'è un rapporto più rispettoso con il mare e quindi con la natura. Per meglio dire, la sostenibilità prende il largo. Sta venendo fuori il tema anche qui della sostenibilità, se di sostenibilità si può parlare, ma direi di sì, anche nell'utilizzo di questi mostri galleggianti, di queste ville galleggianti, che in realtà sono dei bei consumatori di risorse e di energia. Però anche qui, a partire dai cantieri di nuova costruzione, ma anche nella coscienza di chi li usa e degli equipaggi, c'è una crescita che noi stiamo anche lì cercando di promuovere, non solo assecondare, attraverso un programma, una policy che stiamo pian piano realizzando dal punto di vista della sostenibilità ambientale, anche perché noi da tantissimo ormai siamo certificati ISO 14001, quindi siamo obbligati, tra virgolette, ma lo facciamo volentieri, anche a avere un programma di costante miglioramento dal punto di vista ambientale. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.